binaria 23. E chi è? Chi è? E beh, mi serve. Non c'è nessuno, tutto morto. Perché non ci sei tu e io? Io e tu ci siamo, e prima chi c'era, tu e io. E chi si è andato a parte, chi se n'è andato all'altra. Uno chiede di uscire con la ragazza, l'altro deve andare, non so, a mangiare, l'altro che deve andare al cimitero. No, io mi la metto nella TV, me la chiamo l'avventura. Ha disturato, ha detto che attende un po' con la radio, va, ci fai cazzo duro. Cazzo duro per sempre, io accorcio, c'è sempre qualcuno in agguato, però ci sono quelli che sono anche mandroni, per dire dei mandroni a sentire a parecchio. Oh, nonna Giovanna, vado mal dei reni, ma mi devo ridere in riunione e ciò che bucciato. A te questo? Ehi, you, a chi sei? E che facendo qua? Ehi, you, e tu facendo assai? Con Giorni Maria sono. Sì, buonasera, dai, mi sono qua, sto riparando un computer, no, già riparato. Bravo, bravo, lavora sempre, ti sei venuto di là, vero Gianmari? E di là fa dei grissi, la persona, vero lui, bisogna sempre andarsi da fare, ti lascia questo e fa perdere tutto, per cui bisogna pigliare tutto. Giovane, Giovane! Radio Maria, devi lavorare, altro che è sabato domenica! Siamo di casa tuo, insomma, Renato! Ah! E cosa ci aveva? Ti devo dire! Sì, mi pare! Vedo un po', evidentemente! Lo usa parecchio lui, Davvero, lo usa parecchio, sì, io! Sì, io lo uso, però non è che sono delle ore e ore, quando ci sto mezz'ora, massimo un'ora, lo spengo, dopo magari sto anche 4-5 giorni che non lo tocco, capito? Però quando si usa il computer, secondo come lo usi, anche chiaro che fa quell'effetto, ogni giorno, pure io lo uso ogni giorno, per lavoro, cercare cose, affidare. Ehi, ma sappa come ti ho fatto io, la ci posso un poco di DTT, era una fatalina, e i virus sono tutti morti, a bagno di la fatalina, e sono tutti morti che ho mai. Dai, bisogna anche usarlo bene, anche il computer, sono delle cose che se non lo usi bene, hai la ragione, anche facendo tanti errori, si blocca, per cui dopo è un macello. Io già l'ho trovato il metodo a caricarne tutto, lo faccio a zero e riparto, ma mi metto un po' di DTT, di la zincia, di la mocca, insomma un miscuglio di DTT e più alla fine dalla fatalina. No, lo più varo dice, varo dire, il nato è chiuso e poi sopra ci metto il telo. Ma chi vale il freddo e che cosa? La radio, il camion, la gibbiata, la luca, il zero, la circostruzione, la radio non fa un granellino di più varo. Certamente, ti tieni molto, No, richiedo le bocche in nata, c'è scrivano. mia amicina, la manta, grazie. Allora li tappo, forza. Facci per la buona di sera, muro niente, allora ne banco due. Ma ero baracchino, questo è pure fatto. E allora, avanco più sera, Scrivania è tappato. La sta radiolina minore da giù, la casa è tappato. E lo zodia, che è tappato. E chi tu? E chi tu dopo? E l'ha tappato lo mattino. La fa un carello qua, passo lì. Poi lo vedo qua contro luce. Là c'è un granellino di polvere. E adesso quale stai usando? Quello qua è il tuo che avevo preso l'ultima volta. Ah, lascia la portarci un attimo. Ma l'alimentatore c'è vicino. Ehi, ehi, un palmo là. Ehi, perché si sente. Ebbene, l'avevi staccata la ventola. No, lo sai cos'è quel rumore che senti? La lavatrice. Ci deve essere il cuscinetto nella lavatrice. Che vuole ingrassato il cuscinetto, lo deve smontare. E dietro, aprire a vedere se c'è qualcosa per ingrassarlo. E fatti che c'è un rumore. Ah, infatti si sente. Non disturba, però si sente. Sente parecchio, capito? Bene, bene, bene. Senti che attendo qui a vedere. Dice che perché da lui a vedere un attimo, eh? Eia, eia! E ogni tanto lo accendo questo. Ho questo lo zodiac, là si vedono tutti arremoliti. Ecco qua. Un sacchetto di stazionarie. No, da me ne segna 2, 1 e 9, 2, mi sale e scende 1 e 9, 2, mi se so un bel sale a 2, 2, 2, 3. Non è assai, dai. Ah, io da quando l'ho buttata in terra, l'abbiamo messa a posto, già va bene, lo tengo, dai. Io sempre un sacchetto. Certe volte magari anche a due tacchetti, però non di più, non di più, per cui già va bene, va. Adesso è un buon nuovo, cazzo. Ma sono tutti così, Ma sono sicuro che l'antenna non c'ha niente, perché io ho messo un bussolotto e ho messo una giunzione al filo qua in cucina sopra il pensile. Arriva fino a lì, allora avevo messo il bussolotto con una trospezione di prolunga, capito? E magari è dai tipi che me lo fa, perché magari l'antenna non va nulla, capito? La fatica è il giambendo del giornale Natale Benzoli in cucina, la deducata era un po' culeno, buono, l'ho stretto e si è mullata laggiù. Ma è perché c'è quella giunzione, non è diretto, capito? Magari la giunzione non gli fa niente, può essere anche l'antenna, capito? Può essere anche l'antenna. Può darci anche leggermente mollato anche il piede, tante cose bisogna, capito? Per cui perché tu magari da prima non dovevi, bisognava cambiare il cavo direttamente e non ci avessi pensato più a chi. Certe volte magari la trascuranza aumenta ancora la questione, capito? Però siccome già lo stai usando poco e non succede niente. Ma lo sai perché non ci arriva? Perché io gli ho cambiato la posizione al filo, perché prima quando lo buttavo in facciata si vedeva in facciata e così ci arrivava benissimo il filo sul tavolo, rimaneva anche in terra. Invece come gli ho cambiato la posizione del filo per non rimanere in facciata a misurone, non arriva e mi arriva sul pensile, e da sul pensile al baracchino gli ho messo uno spezzone, però è corto anche questo spezzone perché rimane un po' sospeso da terra. dunque quando altro chiamelo già, no è che lo dato così, dati che altro già lo cambio, tanto dovrei salire a pulire lo spettro del tubo, della zuffa, là di ghiaccio, nei tappui già sta curato, già posso veloce, capito? Faccio perché tanto già ce l'hai il capo, capito? Che tu fatti lo per sentivo, approfittale allora quando pulisci il tubo dalla suffa, non fai altro che ti prepari già un PL, quello va attaccato alla tenda, te lo puoi saldare bene, controllato, e dopo è un attimo a farla scendere, a vitagliela e bloccarlo il cavo, capito? Vedo un po' tu, perché uno, io pure ero sempre così, già ero lui ricatto, oggi ratto, domani altro, e sempre vicini, però mi rompeva, perché me le segnava le stazionarie. Per cui infatti dopo mi sono deciso e ho visto che è tutto a posto, tranquillo, ne posso attaccare 50 parecchio, 50 rimangono a zero, boh, non di più, così che, però l'accordatore ce l'ho sempre inserito, capito? Però anche, l'ho provato anche senza l'accordatore ed era sempre uno, capito? Non ha peggiorato, anzi ha molto migliorato al 100%, per cui bisogna fare così, quando bisogna farlo, cioè, il livello non mi va assolutamente, ma che è troppo freddo. E a tempo buono, cosa da fare a tempo buono, tutto lì. Ma quando altro già chi ti crede il buon cazzare, con una cara l'appoggiare un muro, svitto quella, svitto quello là, lo riattacco dove ci sono gli isolatori adesso, lo faccio scendere arrotolato, poi scendo giù nel pianerottolo e ci rifilo in l'angolo di un agibattolo comunque ed è già arrivato. E così me lo faccio giusto che mi arrivi bene al tavolo, capito? Vabbè, che a forza è una cosa veloce. Quando l'ho mollato da qui che sono salito e l'ho passato là, la terra di buco, mezz'oretta mi ho fatto un buco per non rimanere in faccia a Pinzurone che non mi biasia. Ma infatti, se ci fosse più a dirla che a farla la cosa, capito? E quello è fatto. Uno detto è fatto, perché in un tempo della sua ciappa, ecco, non è che uno è sempre impegnato, uno si deve decidere, io faccio questo e lo devo fare, lo fa, capito? E sei tranquillo, capito? Una volta fatto, sei tranquillo e non mi pensi più, come tutte le cose, ecco, faccio me. Io pure, te l'ho detto, ero quasi, più di un anno, oggi salgo, ma non salgo e ero sempre così, però adesso è tutto a posto, il capo è nuovo, e per cui sono tranquillo che è perfetta l'antenna, tutto lì. E speriamo che non si rompa più nulla, che vada sempre bene. Capito mi hai, bello bene. Dalla giuvica la fatica sto combattendo, che già è mezza ancorata, già è mezza dritta. Ce l'ho vista già, che sto combattendo la fatica in macchina, e la tenna fatta, ma prima era lì molto, dunque si è messo combattendo dritti i chivi, e l'ho vista. Quella di ghiaccio, per un po' questo figlio, ma capo quando si faccia mi la compare giù roba, invece puni là sopra la pongo un invaggio del rasso l'orto botanico, già piglia pure dai chili, la buglia. Ehi, lo si rompe, dato facilmente. Non si ritaglia facilmente, poi anche la terra è buona ancora. Certo, sicché per cui chissà fasi ancora un mezz'anno in muro, sicché la mia è nuova, la mia è nuova. Sa cosa c'era? C'era il dato che regola la fascetta su chi alza e spara, no? C'è un dato, era il dato che non si bloccava, allora abbiamo dovuto tagliare, io ne avevo un'altra di quella fascetta, l'abbiamo messa nuova e poi, ed è perfetta, è perfetta. Poi io l'avevo messa la fascetta, invece mettere a 7 cm, l'avevo messa a 5 cm, invece l'ultima tipo della Mantova è a 7, pure anche a 10 arriva, e stazionare niente. E io invece mettere a 7 l'ho messa a 5, ecco perché mi dava anche molte stazionari anche per quello. Invece adesso l'abbiamo messa a 7 e più abbiamo cambiato il cavo e tutto tranquillo, adesso è perfetta, la tele nuova nuova. Poi già c'ho la Mantova 1 in magazzino, per cui se dovessi rompere io ce l'ho disponibile, capito? Altra antenna, ora saranno, dai, di fare la ghisa, mi pare che mollo tutto e basta, boh! Ehi, no, io quella lì, quando l'ho smontata, quella è quella che volevo dare anche giù di Istri, che l'aveva regata a casa tua in macchina, naturalmente, chi non l'ha voluta. E allora io mi cosa ho fatto? Mi veniva già stata rubiana rossa, lo mi raggio giù, sapete, pulita, l'ho smontata, però dove c'è il mollone, l'ho riposizionato nel punto suo dove era. C'era il segno, l'ho mollato, sì, per le valle, l'ho pulito, però poi l'ho rimesso lì, nello stesso posto. E più ne avevo tagliato con un righetto, quindi un pezzo che era tutto a vetro, tutto inchicciato. Oh, quel pezzo ne ho tagliato, poi ne ho tagliato altri due tagli ai pezzi delle aggiunzioni, anche là nella brase. E niente, la giuburiti, la vantivego, diluente, e tutto. E una bottiglia pulita con la cappa a vetro e tutto, gli ho passato altro lo straccio. L'ho salita a cielo, si sta assemblata di nuovo. E anche più corta quella, perché ne ho tagliato. Ma già funziona sempre bene. La sede è buona, perché non l'ho vista, la sede è buona. Per cui non si va lì niente, anche se tu l'hai tagliato, e cosa li fa? Non li fa niente, per cui ho visto che stazionare non ne aveva. Quando abbiamo piazzato stazionare non aveva. È creato dopo, adesso non si sa, prima perché era mollato il cavo, se ti ricordi, dopo l'abbiamo stretto bene e già l'abbiamo eliminato le stazionali, ed era perfetta l'antenna. E dopo si è creato altre cose, boh, non so cosa era, cosa può essere, cosa non può essere, però senz'altro è da quel cavo, senz'altro da quel cavo. L'antenna non c'è niente, non c'è niente, perché l'antenna è buona ancora, capito? L'antenna è buonissima ancora, e ne fa. Mi vuole cambiare solo il cavo e non vi sono problemi, boh. Ecco, tanto il cavo ce l'hai, quando devi decidere sale sulla piazza, intanto comincia a saldarti il PL, me l'hai saldato, te lo controlli prima di attaccarlo, col tessere dall'altra parte vedo un po' se ti ammazza oppure no, e uno è tranquillo almeno, quando la piazza sei tranquillo che non è ammassa ed è perfetto, capito? No, mi avevo comprato anche i due PL macchinette, me li avevo ordinati, ce li ho due di PL, e una volta che lo saldo bene già noi ammassa, la di ghiaccio ha pure messo giù questo di giubbo della stufa, pongo la cala da reggio, lo mollo, vedo chi se non posso fare, boh, tutto basta, sai, bimbo. Una volta che me lo filato qua dentro il buco, lo appoggio bene su il pensile, lo faccio accendere, lo faccio arrivare, il filo lo faccio arrivare sino a che arrivi bene sul tavolo e che rimanga in terra, non sospesa. Adesso un panno appato da terra che è cotto, capito? Anche se ci ho messo quello spesso corta anche quello, già ce lo dovrei avere un altro più lungo, ma lo da così non me l'ha finita. Prima o poi al voto. Ah, io l'avevo preso anche per campagna. E qui il cavo l'avevo preso. E invece non l'ho cambiato, il cavo era buono ancora, quello grosso che c'era. E non l'ho cambiato. E gli altri 50 metri quel cavo. 50 metri ne ho. Dunque, qua ne avevo preso 40 metri, no, no, 25 metri avevo preso per qua, e invece ce l'ho messo 18 metri e il resto ce l'ho qua, per cui pensavo che fosse più lungo, invece era più corto, perché adesso prima magari era più lungo perché usciva da in facciata, mentre adesso invece proprio dove c'è il palo ci ho fatto un buco e l'ho fatto scendere dentro col tubo della cappa, il buco della cappa, e l'ho chiuso, che ho fatto un percorso con la canaletta e ce l'ho qua, e per cui è più perfetto adesso, ed è più corto il capo, capito? Ma io lo stesso l'ho girato il filo da là per non rimanere in facciata a misurone, invece ne rimane un pezzettino nell'angolo del portone, che non si vede nemmeno, ma del portone della gabbia passa proprio nell'angolo, la facciata con l'angolo della tromba di ricca, e se ne vede un pezzettino, cosa sarà, un metro neanche, ma è nell'angolo, se uno non vede così dolce, ma così vede. Andava, e lì ci avevo passato anche quando ho piazzato quell'altra antennina piccola del PMR, e non passano tutte e due lì, e tutte e due entrano in un buco mattese, e già mi ricordo la richiesta pure in un dubbio, gli avevo un gatto poco a farlo, intanto l'antenna non va nulla, è dal capo il buco, che poi non è neanche dal capo principale, è da quella, come ho messo quello spezzone qui, è dal bussolotto che fa magari dispersione, cosa ne so, è lo spezzone del cavo, se no va sempre benissimo. Se io metto il baracchino sopra il pensile e attacco direttamente l'antenna, non è stazionario. Sì, che bello. È registrato. E può essere anche quello, ma e quando piove che c'è vento, le stazioni diminuiscono o aumentano? Un attimo l'amico, no, rimane sempre un mattese, adesso è 1,9, 1,8, 2, quando mi adesso è 2, 2,1, 1,9, ciao Antonello, aspetta, rilanciamo, vai Antonello. Buonasera a tutti, belli squicciti, c'è qualcuno che mi sta chiamando da un'oretta quasi, sta trovando un barchino, vedete, mette a fare chi è, avanti che vuole parlare. Ma chi è che vuole sul fondo? Lo pompone, però se c'è qualcuno che sta chiamando, io non tenno a nessuno. Aspetta, ha detto salve, buonasera, chi sei, avanti amico? Amico, ha detto salve, buonasera, avanti, chi sei? Buonasera, ben ascoltate, io ti ascolto comunque. Sta provando un 2009, ha detto, si chiama Fantasma. Lo senti, Giovanni? Io non lo sento, da dove sta modulando? Adesso glielo chiedo, dove stai parlando, Fantasma? Ho detto, dove stai parlando? Sono Alghero, ho capito. Comunque io ti sento, Santiago 5, sì, qua Sassari. Radio 3. Sì, già va bene, già ti sento bene io qua, perlomeno. Gli altri non ti sento, sei basso già, qui sei Santiago 5, figurati. Avanti Gianmarino. Sì, ok, buonasera a te. Io al momento lo sento bene, ma a momenti non si capisce ciò che dice. Comunque lo saluto se lui mi sente. Con la buonasera, ma a momenti arrivi da me, a momenti va. Antonello magari c'ha la posizione buona per Alghero e per cui ti sente perfettamente. Io a momenti ti sento, né più né meno. Così, e tu Grazia come lo senti? Negativo, non lo sento per niente. Non lo so se lui mi sente, chiediglielo a Antonello se mi sente. Io non lo sento. Adesso glielo chiedo. Fantasma, lo senti a Graziano? Ho capito. Ti sente Graziano, ti sente basso basso? Di più non posso sollevare, solo ce l'ho a zero la potenza. Io credo sia di tu a lui. Mi dà, ti sente comunque. Capito. Avanti, Giovanni, prendi, riprendi. Infatti io a me arriva a momenti, arriva bene, a momenti non riesco a capire ciò che dice. Ma lo sentivo da prima, quando smetteva Graziano, lo sentivo che stava dicendo cose, però non si capiva. Perché adesso magari qualche poco, qualche frase già riesco a capire. E anche lui dovrebbe essere in una posizione un po' malorda anche per Graziano, perché se lui non lo sente, evidentemente per Graziano è negativo. Ok, tutto lì. Vai a tre. Vabbè, c'è anche quello, ma io c'ho lo scaric electric qui, era quello lucidante. Questi tre si stanno girando le balle qua. Capito? Sento scariche delle al naso delle di questi tarici da 15.000 che è una cosa allucinante, capito? In tutta Italia parecchie addirittura, non solo di uno, addirittura nel 2009 la stessa cosa, QRM e scariche elettriche, sento. Perché io ho anche il grattacielo di fronte e anche per quello io non lo intendo. E infatti tu c'è il grattacielo anche per quello che la recensione che ce l'hai proprio perfetta, perfetta. L'importante è che ascoltare anche se sono sentito in basso, l'importante è sentirlo più che altro. Vabbè. Magari se la sposto nell'altro terrazzo l'antenna è più aperta lì, perché mi sposto di un 5-6 metri, magari non so, riesco a sentirlo, però è più bassa se la metto lì l'antenna. Già lo so, però già hai punti buoni comunque tu, in quel pezzo. Capito? C'è quella specie di... Noi avevamo tentato una volta che lì il punto era alto, solo che veniva male a lavorarci, cat. Figurati. Poi anche più giù, non è dove ce l'avevo prima, no, nel punto più alto. Ce l'ho a metà della discesa adesso. Che al limite, non lo so se... Solo che mi veniva male lì a piazzarla, che era troppo in alto. Là è male, via. Già visto che mi ha fatto dannare a piazzarla lì, in quel punto, perché era il punto più alto. Andare, fantasma, di Alghero avanti. Sì, che sta funzionando, ce l'hai il BP di fine trasmissione. Ho capito. Sì, vabbè, questo è vero, simile a quello che c'è tu. Questo è una lata 7, c'è 271 canali e 6 bande, in pratica. Quindi, un pochettino, 40 canali in più e basta di qua. Ma però l'apparecchio già è simile a quello che c'è, sei usato tu. Avanti, Giovanni. Tu sei una posizione buona, Antonio, è per fare posti, capito? Mentre noi siamo molto in basso e per cui è un po' balorda. Anche per grazie a me, io lo sento, sta dicendo cose, però non riesco a capirne una frase, capito? Specialmente adesso non ho capito proprio niente, so che sta parlando, però non si capisce niente. magari da Graziano non arriva niente, secondo la posizione, capito? Magari io lo sento invece Graziano, secondo la posizione anche dove si trova lui pure, capito? Perché lui è Alghero, sentivo dappertutto, mentre evidentemente in una posizione che per lui non è favorevole, e magari lo sentiamo così e non si capisce niente, capito Antonè? Ecco, dimmi di che parte si trova lui. Allora, se lo chiedo, in che parte sei di Alghero, più che altro? Fantasma. Una specie di grappa che sei usata in pratica da... se c'è quattro donne, ti dovrebbe essere una gran prima. In campagna sta Giovanni? Non ho sentito niente adesso, E dove si trova? In campagna fuori da Alghero. Vedo un po', così che è un po' coperto, capito? Per ecco perché Graziano non sente nulla, è per quello. E secondo dove ci troviamo, capito? Tutto lì. Ok, a me bene mi sente lui. Beh, se sente Graziano mi sentirà anche a te. Fantasma, lo senti a Gio Maria, sì. Io quelli che sento bene da che sono quelli nella zona di Pertiglia. Da Pertiglia lì, quali sento bene? Pertiglia ce l'hai di fronte tu, sei libero, grazie. Nella zona di Pertiglia. Io invece becco in pieno capocaccia, figurati. Invece dove abitavo una volta, da lì è una cosa allucinante, io parlavo per dire che tranquillamente con la devo nel porto, arriva quando vedo e dargli il segnale, figurati. Un giorno avevo fatto parlare a mamma, ho detto mamma, ho detto papà, ho detto a parlare, chiamami a vedere come ti ascolto di Alghero, allora scendevo con un amico, scendevo, capito? E arrivavo fondo scala lì, capito, da mio zitto. Invece qua sono molto più in alto, però la zona è totalmente diversa. E quindi anche io c'ho capato, c'ho solo la zona di capocaccia che è libera, perché qui ci sono diverse quelle palazzine di cartaceri di carbonati o di tappa. Io quella zona Pertiglia, capocaccia, tutto bella. Tutta quella zona lì, l'Argentiera, Portoferro, insomma tutta quella zona lì, ce l'ho tutta libera io. Alghero invece, c'ho il grattacielo di fronte, capito? Oh, e in quella linea lì, Miruzappa, quelli che ho sentito io da Alghero sono di quella zona là, non di Alghero Alghero, capito? Sì, ho capito, grazie. Ho capito, perché voi sei aperto solo per quella zona lì, c'è solo quel fianco aperto. Vabbè, la gente ce l'ha anch'io, a Tendentino, a Gentiera, a Sentino, la zona di Alinara, avete solo proprio di fronte, capito? Il confronto di Alinara più in pieno. Solo che meglio di dove sono io, vedi, c'è quel punto vicino a via Zara, lì c'è un punto dove il golfo d'Agiano sembra che ce l'hai neanche a qualche posto lì, neanche a un chilometro, dove si vede il mare chiaro, chiaro, chiaro, e tutto quello che c'è appresso, lì da cui sei, dai. Da qui prendo benissimo tutta quella zona lì, anche con il PMR, da Sentino a qua, era una bomba, anche lì a Essimano, da Essimano a qua, una bomba. E anche io sono aperto con il PMR, mi ha fatto varie prove, anche con Marco. In PMR sono una cosa allucinante, capito? Fondo a scala proprio, ascolto tutti, ce l'ho proprio di fronte. Poi l'altro non c'è stato di invece si è un tappato. E anche perché c'è la colonna di qui, di via Carlo Felice che mi tappa, capito? Più di tanto non posso uscire. Ce l'ho aperto una parte opposta, fosse stato da un'altra parte e sarei arrivato un siluro come minimo. Cino, in provincia di Cagliari, capito? Ehi, già Mari, riprendi tu, entro in ufficio un minuto. Ehi, va bene, d'accordo. Ehi, secondo dove, dai, secondo la zona e anche secondo anche le condizioni della persona dove si trova, capito? Con che cosa sta uscendo, com'è? Tante cose ci sono, magari voi siete avvantaggiati e magari tu sei avvantaggiato perché sei molto in alto, ecco, per cui sei aperto. Si è aperto da per tutti, specialmente da Villanova, per esempio, Alghero, Sentino, si è tutto aperto tu, capito? Mentre noi invece siamo più coperti e allora magari certi dove, secondo dove si trovano li sentiamo in queste condizioni, tutto lì Antonè. E cosa ci vuoi fare? Purtroppo così. È peggio il PMR, hai capito? Secondo voi sì, a due passi non lo senti, hai capito? Però è una frequenza malorda il PMR, per cui, ma la 27, cazzo, prima magari ci si va dappertutto, mentre oggi è tutto diverso la questione, non riesci più a avere i collegamenti magari che facevi prima, è tutto cambiato anche dei rumori e tante cose, capito? Tutto lì, voi siete fortunati, ci avete una zona perfetta, come può essere Claudio, per dire, cazzo, Claudio è il punto più alto di tutti, gli altri, quello va dappertutto. Claudio, se a Ozzini ci arriva sparato, ci arriva addirittura anche con la Toni, ma come fa? Adesso vabbè, gli ci bucano, no? È l'unico che il camionista che si sentiva in tutti i posti. Vabbè, poco più un camionista se tu ascolti sul 5 la mattina, se no ne sentirai due. Prima era pieno del camionista. Adesso tutti spariti sono. Senti, un saccaccio di giambotto, però Antonè, molte volte ti copre, ma si vede che c'è la televisione accesa e certe frasi te le copre, capito? C'hai molto dispersione lì. Il microfono è salito, cazzo l'ho abbassato, c'è qualcuno che stava fischiando avanti. Sparito, ho sentito anche io, ma ti vuole entrare? Non so cosa dirti, io misuro per andare la 5 ottavi, non ne so. La mantova so che è lunga 7 metri e 0,40, probabile poi c'è anche la bobina da contare. Quindi, come lunghezza. Poi c'erano le famose mezz'onda che sono lunghe 5 metri, poi ci sono le... L'altro tipo di 50 perché è lunga la 27 L per esempio, è lunga 6,50 m in tutto. E bisogna che ti guardi qualche catalogo di antenne della Midland, per dire, o Intec, qualche cosa su internet, e ti cerchi qualche antenna così, qualche 50 è buona, e sei tranquillo. Ho capito, no, io mi ricordo il dipolo, però perlomeno la misura esatta è 2,64 m per braccio e stazionale ce l'hai 1,1 m per la installi, quindi la misura del dipolo è così. Poi della Grand Prix mi ricordo che era 2,65 m, però no, bisogna vedere anche, non lo so, anche perché c'è l'angolazione radiale, devi contare, quindi hai capito, per poter visuare bene. Già va bene. Avanti Giammarì. Ma che antenna sta usando Antonio lui? Si è costruito una specie di Grand Prix, si è costruito. Perché sento che sta parlando ma non capisco le frasi che dice, capito? Troppo basso arriva da me. È inutile a parlarci perché non riesco a capire ciò che dice, capito? Vai, parlaci, tu parla. Vabbè. E grazie a Fadolze, grazie a no, finito di fare la pupù. Ancora non ho finito. C'ho certe scariche elettriche, boh, allucinanti. Io Mari. A Santiago 5 e 6 ce li ho. Cosa? C'ho certe scariche elettriche, a Santiago 5 e 6. Ho letto, deve essere che c'è il vento e ci sono i calici, deve essere che sono belli bagnati. Questi bagnati, non credo, dai. Non credo che ci abbiano bagnati i piedi, dai. Ma è così, dai, secondo la posizione dove si trova e per cui arriva troppo basso, tu li prendi, Alghero che se lo prendi in piedi, io lo credo, dappertutto. Per cui ecco perché riesce a copiare perfettamente, ma perché Alghero lo sentivo sempre bene io, tutti quanti, ma a lui no. Assolutamente, so che sta parlando però non si capisce ciò che dice, qualche frase così capisco, basta, tutto lì. E vuol dire che si metterà in condizione più favorevole se vuole chiacchierare con Sassari, perlomeno da queste parti. Io lo sentivo da prima molto, che quando terminava Graziano sentivo qualcuno dicendo cose ma non si capiva niente, capito Antonio? Sono qua! Sei rientrato Graziano, no, io sentivo lui sotto, infatti sono andato per quello. Stavo ascoltando, era mezz'ora già mi ha parlato da solo. Tutti che non ho sentito la terra fantasma. Adesso comunque già lo sento io. Avanti Grazia, fatta la pupù. Fatto. Ettore, senza motore non si è sentito. No, è quello magari. Verso le 7 e qualcosa entrerà senz'altro, anche lui che si è preso il zafferato, per cui solo a quell'ora entra, così che il zafferato, ma chi c'è dopo le 7:30 già entra. Ieri sera non l'ho sentito per niente a Bacchisio, Tore sì, ma a Bacchisio ieri sera nulla. No, a Bacchisio, ma ieri non l'ho acceso io, sì. No, ieri infatti non l'hai acceso, no, perché ho chiuso che erano quasi le 8 e tu non c'eri. Non l'ho acceso io. Ok, allora, fai prendere a... come si chiama? Boh, allora mi ha messo un bivato a fantasma. A fantasma, c'è la portata, avanti, chi vuole entrare? Oh, non c'è nessuno. Non sentendo nessuno. Aspetta, sai che stavo parlando? Volevi sapere, fantasma, dove si trova un riparatore di che cosa? Bisogna quello pronti da Vittorio. Vittorio lì a Monserrato, capito? Quindi già vedo che la porti lì, a meno lui te lo ripara, adesso non mi ricordo manco la ditta come si chiama. Ed è lì via Londra, frequenzi vedono che è così facile ripararlo, non si ripara un barattino di quelli modello vecchio tipo 2009. Frequenzi mette tutta un'altra cosa, tutta un'altra gubba, ci sono delle regolazioni da fare, eccetera, eccetera, ci sono dei quarzi, ci sono dei cosi. Quindi, anche perché va montato all'interno dell'apparecchio il cavetto, la sondina, capito? Per dati la frequenza in trasmissione, anche ricezione, tutto lì. Avanti Giomari, riprendi. Adesso il chiamatore, Giomari. Aspetta, riprendi Giomari. Attore, ma ha un telefono? No, io sapevo, se mi chiama, no, ancora è carreghese. Attore, riprendi un attimino che hanno suonato, niente più. Volevo chiamarlo in PMR, grazie. No, ricordiamo un paio di volte con questo gazzoro e noi. Adesso che carichiamo, te lo posso intendere. E sta caricando la scarico. il gramofono così. è chiaro da me se sta parlando. Aspetta, ce n'è un altro. Vediamo, aspetta. Vediamo qua. Maranno che la Zaccaria, ma cosa ti ho fatto di male? Ti ricordo una giusta. Sentito! Sì, già ho sentito già. C'è cosa che mi manda Roberto Belicavigli ogni giorno dalle 4 alle 5 così su WhatsApp, mamma mia, una cosa allucinante. Certi filmati che mi manda, per carità, perca. C'è uno che sta facendo ciucu ciucu con la moglie e lui fa così e poi ne mette solo anche la chitarra, non so l'altro, per sentirlo. Ma qualcuno te lo mando io a te sempre. A me mi manda Luca, Flip, davvero ti rimando pure a te. Solo che non lo so così se li guardi su Messenger o su WhatsApp. No, su WhatsApp, già lo guardo, già li ho visti i filmati che mi hai mandato. Capito? L'altra volta l'ho avuto in pratica eliminare tutti, perché c'avevo il telefono che era andato in tilt. Ho dovuto eliminare tutte le foto che c'avevo, tutti i messaggi WhatsApp, tutti i messaggi su coso, su Messenger, quindi c'avevo proprio il telefono incasinato. Adesso me lo... Allora, poi si è rotto l'altra volta, il mese scorso, mi è caduto in terra al tavolo della cameretta, ha squillato, è stato in terra, a rasura, e si è spaccato il vetro. Ieri mi sono recato la cosa di Alcona, l'ho trovato precisamente con lo stesso prezzo di quanto avevo pagato io prima, sempre l'LG K4, e infatti così almeno li ho due, cioè in pratica uno è nuovo, il vetro, l'altro invece lo tengo per di riserva, capito, per pezzi, al limite se mi si guasta la batteria di uno, c'ho la batteria nuova dell'altro, dato per sistemarlo ci vuole una quarantina di euro per cambiare il vetrino, capito? Per il momento non glielo cambio, lo lascio così come, poi in seguito prendo, lo porto ai cinesi e me lo faccio cambiare, così gli annaggio lui. No, io questo me l'ho preso da poco, da internet, e Huawei, l'ultimo della Huawei ha fatto, però c'è mal telefono, mi ho preso anche due vetrini e in più di scorta. Mi mandavano il telefono, ho preso anche i vetrini, forse già mai di scorsa, e me li cambio io, non è un problema. E questo è nuovo il telefono. Cioè, l'altro che ci avevo dato mia moglie già funziona bene lo stesso, però questo è ancora più potente dell'altro che ci avevo, c'ha più cose anche questo. Poi adesso ultimamente mi ho ordinato quella specie di binocolo che l'attacchi al telefono e fa tipo cannocchiale. Col telefonino vedi, per esempio, più messaggio lo vedo in occhi, in casa lo vedi, le pale eoliche con quel binocolo lì, e poi fare la foto e te la ravvicina molto vicino, come che sei qua, capito? Gli ho capito, il binocolo con la macchina fotografica stai parlando tu, quello che avevo visto una volta, che non avevo più visto in giro, quella pubblicità lì. E sono bellini gli altri binocoli, fanno le fotografie, te le fanno nitide proprio, perché c'hanno un zoom, capito? Basta zoomare, è come se ce l'avessi qua davanti la cosa, capito? L'ho provato da qui, l'ho provato a fare un paio di foto verso Sentino, Porto Torres, sembra qui, lo punti, guardi, se lo ingrandisce, fai la foto e sembra che ce l'hai di fronte, capisci? Io so, fai la foto e poi lo scarichi direttamente sul telefonino. Già non lo ricordo quel binocolo, l'avevo visto, costava in più pane intorno ai 50 euro, se non mi ricordo male, una cosa simile. Col trasporto e tutto mi era venuto quasi 70 euro, là. Però è un bel comodo, se tu vai, non lo so, al mare, vedi una nave ben lontana, capi? Ti fai la cosa te la fa vicino vicino, si ravvicina a tutto, le persone, tutto quello che vuoi fotografare, e poi fatti da tipo binocolo quasi, però è un bel potente, più del binocolo che c'ho. E io so, ce l'ho, vabbè, io un binocolo già ce l'ho, però non è che fai che non dica granché, capito? Però diciamo delle giornate belle, belle proprio che si vede, tutto si vede, capito? Vedo proprio a sentire tutto, le pareole che ci sono, poi quelli quei fari rossi, sono dalla parte dell'area alla Gentiera, quei fari rossi adesso non ho capito se sono brutte cose di visore, cosa ne so. No, il binocolo che ho sono buoni tutti e due, uno addirittura è militare, è di quelli russi, c'ha anche i vetri rossi, perché fa anche di notte, capito? Di notte fa l'infrarossi, fa, capito? E vedi bene anche di notte. È solo che non ho durato mai, che pesa un tronco, pesa un bel, ci ti verrà picchiacuto, di nedro calamorato, quello è bello, però quello lì è militare, cioè è russo, c'è anche la stella russa, falce martello, quello è buono, quello l'avevo pagato 100.000 lire, c'era la lira allora quando l'avevo comprato. E poi ne ho un altro che la mitra è di Ghizzi, piccolino, già è potente lo stesso, però quello grande che c'ho è più potente. E io già ho capito quel binocolo, a Trattamono li vendevano quelli russi in un periodo, c'erano tutti i giorni, c'erano lì dove c'era l'ottonda, si mettevano pure prima di arrivare a Trattamono, si mettevano lì con la bancarella e vendevano binocoli militari, che non ricordo. Bello invece trovare un telescopio di quelli come si deve, non di quelli tipo quelli cinesi che non servono a nulla, proprio un telescopio professionale. Certo che quello guai, vedi la nave come se ce l'avessi attaccata a casa. Cos'è che hai comprato, grazie? Avevo comprato un binocolo russo militare, è bello, ma è un bel pesante, però è un bel potente, e poi funziona anche la notte perché c'è gli infrarossi, capito? È roba militare, bello, è bello, si vede benissimo, e poi è potente e si vede pure da un bel lontano, però è un bel pesante. E già ne ho un altro che è la mitra di Ghizzi, che è bello matese, però quello più grande è un bel potente, quello lì è dita, c'è una bomba, è roba militare. Quelli infrarossi, quelli sono gli unici, sono perfetti, anche di notte infatti. Però io ne ho uno piccolino che l'avevo preso a Trattamono dai russi, da un russo che vede un po' di roba, quello si mette sulla rotonda e vede qualche macchina fotografica, e piccolino mio, sarà 7x7, una cosa del genere, ma già che buon avviso, già sei fatto un bel impasto, regolabile. Pesante un peccato, poi sai che si fa tu il buon tracolla e poi va bene, grazie. Ehi, quello è bello quando vai a caccia, capito? Che per merciare lontano si ne vale la pena di andare verso quella zona là, vedi, capito? Allora ci dà uno sguardo con quello, si vede che cosa si può cacciare, si avvia, ma se no a mezzo di un altro gruppo, capito? E per non fare strada a un meme, magari a mezzo non vuoi nulla da questa parte, e magari dici dall'altra parte, e magari pur più vicino e da cacciare, compreso. Ehi, altro fuori. Sì. Ma non ne ho visto più di quelli che sento quelli aggiungi, in Russia erano, a Torino. Prima si mettevo io, anche sulla punti punti, soltallati, finiti, morire in una piazzuola. E sentevo tutto, tutto. E non le previsi neanche io, Loretta. Evidentemente, boh. Hanno paura magari uno si accorgesse questa roba. No, mi avevi visto che adesso con la legge nuova è un casino a prendere questa roba qua, capito? Senza sapere la provenienza. Evidentemente per quello che non. Magari ci avevano fatto qualche negozietto. Che conviene di più, perché la prendevo così. Se ci va la fidanza ne avrebbe già tutto. C'era uno ultimamente, che l'avevo visto lì all'incrocio per girare a Porto Torres, nella zona industriale, per andare verso Sentino, proprio nella rottatuia, lì prima della rottatuia, dove ci sono quegli alberilli, che giri alla strada dei due mari. E c'era lì un paio di anni fa, mi ricordo che ce n'era uno lì. Però poi, boh, non lo so, quello della Budibuti è già un bel non l'ha più visto. Ce n'era anche uno lì alla Budibuti, è sparito quello, boh. Io ho preso la mola, una mola grande l'ho preso da loro. Cioè, l'avevo presa 30.000 lire, l'avevo presa. Ma ce l'ho ancora, cazzo, avevo fatto anche due carboncini di ricambio. L'ho usata quella la mola. E c'è frattente che pesa come dice, un trono però, pesa molto picco, cazzo. Ma è buona, stai tranquillo, vista taglia che fa di tutto, E ce l'ho ancora quella lì. E l'avevo presa quello lì. L'avevo presa. No, vedeva roba buona, Roba russa, roba buona, non roba italiana, intendiamo. Ce l'ho sempre bruciato, che la meraviglia. Pesante, sono pesante perché materiale buono, Tutto lì. Già lo so, già me la metto, va via pure i ferri, anche roba usata c'aveva. Però era tutta roba di macca, roba buona, noi era lì, di Dresi, era tutta roba buona, quella che ci avevano. Anche quei ferri che erano usati, erano buoni. Una di me lo voglio abbigliare, quello che fa le affilettature, solo ne voglia troppo, allora non ero preso, era una valigetta e c'erano tutti i pazzi per fare le affilettature. Era usata, si vedeva, però era nuovo. Ma ne voglia troppo, ma non mi ha mettato ne voglia e non le ho preso. No, non ci sono più, stati pure magari che sono in giro, magari dei paesi, forse sarà così, magari sono andati per i paesi, perché per più facile, che magari non facevano più a fare, allora se ne sono andati ai paesi. No, vendeva roba usata, però era roba buona, ecco che lui rispetto questa bolla, e se la vedi, è pesante, è roba buona, si vede, tanto fa un po' che non si ripete, è che si consuma che si chiede, che si fa, gli mandava il recapito, io sono venuto a mettere un raggio fuori, si trovava, no, funziona che è una maraviglia, taglia per il gusto, taglia una rotaia, cazzo, che una di un amico che è bruciata, chi stava si brucia, no? No, la mola è vaggiù della Sayer, mi aveva venduta, io che mi guardo il Columbano, un tunisino che si puniva a Matezzi e vendeva roba di ferri di officina, da lavoro, là. Però tutta roba buona Matezzi, di marca, e mi aveva venduto quello lì, la mola, la Sayer. Ce l'ho in garage, nuova, e l'ho usata, ma davanti canto la giudrata della mola. Ce la vede nuova, un bombone, e la della Fager, la marca. È buonissima, ma va venduto Vizio e altri ferri avevo comprato da quello. E poi neanche quello più visto. Rimane vivi e muti. altro burro, beh, per mantello, perché adesso sei sotto anche lui, per cui. E poi, ecco, è peggio di quell'altro. Lasciamo che Tore più migliore di quel bello della Terocce. Quel bello della Terocce, quello lì, cazzo, mi sembra che ha perso anche i conoscenti del baracchino. Ah, ti ricordi che diceva cosa noi a entrare e lui c'era sempre, sono c'è lui e noi siamo sempre qua. Anche sempre i gubichelli, i cimbriachi e vernicelli, è sempre su peso bull. Con chi cosi che vernicella la cubicatura del professor Luca Flipper, qui si fanno cubicature e anche quella adesso sta facendo i soldi, capito? Sta facendo i soldi di quelle cose, per cui non c'è tempo del baracchino, capito? Avate sempre contento di là ed è sempre impegnato con tanti soldi che si sta guadagnando. E allora, Cande, mi pare che la domenica o sabato mi ha mandato un fuoco acceso, una gravigliata, tutto, 6 o 7 cosciotti di bollo vera lì, da brossolenti, da poi ha sarrato lo zappo, da poi la becca nel tutto il fumo e le cosciotti erano mezza brossolite. Hai tentato a fare questa cosa, però ha avuto proprio la cuccagna un sopracciglio, cazzo, hai visto? Apre, chiude, cazzo, tutti la roba subito, perché come lo chiude tutti i vapori rimane dentro e la carne se la abbrossolisce in pochi minuti, capito? Ingegnere, è diventato ingegnere. Sta facendo i soldi da queste cose. Ah, beh, pure me ne ha mandato le fotografie in fare, quindi era una quindicina. Ma Piero, sul telefono dice fotografie. Pure a me, ma io gli do sempre il consiglio, ma l'ha consigliato a fare un buco da 40 in un tappo e pulire un pezzo di dubbo un 10 centimetri a farli la canna fumaria. Anche se no, quando fate un bel fumo dentro, infatti la ruscilla vi la fumigheggia la carne. Dici, ma il fiato gli aveva un fiacco, ma il fumo tende sempre a tirare dritto sopra. Devi farlo sopra lo zappo, quando lo abbassi c'è lo sfiato. Così il fumo esce dai libri e la carne ti arrusci bene. E se no la fai arruscendo, bruciando e fumigheggia. No. Ma penso che l'ha già fatto, che ci vuole, come regola ci vuole, capito? Come regola ci vuole, un po' di schiaccio deve avere per forza, un po' perchio, e infatti, un buco, guarda, un buco, un pezzo di buco saltato, e la fumaio, quella la fumaiola. Così deve essere, allora, chiaro che se non si ribrucia se la commeggeggia. Bello bene, se ci stai ascoltando, fai così, Ti ha appena giudito già, io il consiglio vi l'ha aiutato. E la bella giudito di 8 ribeti, a due ribeti di Taredo. Se fai due buche e piace due rotelline, quando non devi pucciare, agganci il tappo, lo alzi appena e lo sposti dove ti piace. Tutti i consigli che gli ho dato io, tu non te lo dici, ma te lo dico io che mi ha aiutato i consigli al bambino. Tanto tu fai a modo suo e... Certo. E pigersi da tutti, capito? Di danno e per la parati, per cui è tranquillo. Ah, che mi ha mandato i gocci di bolle, lì l'ha mandato i bistecchi, la panzetta, le orate, con chi su fragili mi aveva vinto i duetto. Dice, ma chi sei minore, ma chi c'è un treno andenti, bello bene. C'ho la griglia anche tu prefatto, la buona in mezzo, la zarri e la giri così. Perché ci vuole quella libera dal bene. Sei stata figlia bruttissima, tu scendi, lascia piano abbassare l'attimo, tu guarda le mani, la fai sotto il gioco, boh, e scaccia la griglia, chi stavi voi? Pizzi ghinaggio, ne ho uno corto e uno lungo, a voglia! Vediamo un po' se il ragazzo vede, se l'ha bagnato un bel quanto ne ho. Oh, acqua che c'è di vesti, su, va! Core, sano, attento, signor Bacchisio, ancora non sono discusi, verrai fra poco qualcuno ti affaccia, a dire. Qualcuno senz'altro si affaccerà. Pronto? Piero Pacchi. Aspetta un attimino, buonasera a tutti e due. Io ho quasi finito. Puri la vetta, cavola fiore, che non drunco quasi bezzo. Hai visto che era imboscato e travagliendi. Aspetta che vedrai che si fa sentire, aspetta. Dietro la Calafiore, allora fumene. Sto le mani a Edu, se non le pianta nemmeno Calafiore, così che non può far Calafiore per nessun coso. Ehi, la fate mani all'arte, ma non già la pianta. A te, dottore Squalo. Ah, Tonello, ma tratta la cuba di la Dreger, o di lei chinusa, si è imparato. Ehi, avanti al riposente, se le diventi piano piano, se posate così fa. E intanto la saggia, capito? Che tu tradisci piano piano, capito? Leva giallina, capito? Non come te stessi la dici tutta un tratto, se la dici piano piano. E allora, oh yeah! Mi la giubito un tazzone di birra di chissà niente, chissà tedesca, mi buona retta era. Ehi, c'è una giubito un po' che sa, cazzo di chissà, di chissà, ehi, la buona birra, birra, va birra, buona come che prima, no, che mi chissà, e chissà. Ma che birra, prima era birra, mai mai, sta niente a me, cazzo un tazzone, si bregava, un tazzone si bregava, oh vabbè tazzone si deve già in Germania, dopo mettere in Italia, io sapevo un tazzone, si inventate i tre libri, si può immaginare. Ehi, da rotto quel tazzone grande, da mezzo litro e da un litro. Per panico, chiacchia, e chi dici? E chi dici? Oh, cazzo sarà io, i cantieri, speriani si raggiano, le puliscono della birra, ragazzi, lei si battesse la città, capito? E tu puoi dire tutta la birra che tu vuoi dire, su Maria, cazzo di radiziani, in che tedeschi, che è Santa Alcune Mie. Ah, vai, invece, non puoi dire sul luogo, va, cazzo di traverso, di dire tutta, e va giù le basta. Guarda, che erano tutti di lì. Va, farlo, va. A chi no che preparelli i funghi in forno, culo patati. Preparelli, allora ti sentiamo, ciao Ru, ti ho sentito, è buon proseguimento, salutori. Travaglia. Ciao Graziano, ciao Paoletta, buonasera. Ciao Bacchi, gioia, adesso chiudo là, che qua sono di troppo, prima mi cuglierà degli a capo. Sì, via, già ci vediamo allora, grazie, saluti ancora. Avanti Gian Maria con la buonasera. Ok, buonasera, prima di tutto, Bacchi, più per rispetto. Ciao, grazie, ci sentiamo, vai, buon proseguimento, saluto a Rossi. Mi raccomando, è preparate cosa vuole per cenare. Ciao, a domani c'è coincide, ciao. Eia, ciao, a domani. No, devi preparare pure la pasta al forno, a domani. E tu quelli vuoi giusto, va. Ciao, ciao. Ciao, Bacchi, salutami col pellegrino quando entra. Torre, senza motore. E chi ti separa della cupa della Dreger? Cinusa ti vende, Graziano, Cinusa, a Ticinchina. Benissimo, a domani, Graziano, buon QRT. Avanti Gian Maria, riprenditela. A Torre deve essere a accompagnare la signora. Deve essere sì. Deve essere sì, va per le risposte. E allora Bacchi, cosa sei freddi chi dà? Sì, lo stavo preparando un microfono nuovo che ci avevo giù. E stiamo sperando i fili per poter salutare e a fare in dimiro. Capito? Stavo preparando lui a vedere un po' se quel microfono funziona. È nuovo, mai usato. Se è nuovo, mai usato, dovrebbe funzionare, secondo me. Perché non è che si rovinano anche se non lo usi. Ah, boh, un annetto che dentro la scatola lì. Mi sono ricordato l'altro giorno, ah, ci sto vicino, allora ti pongo in funzione. Poi io non lo sto usando più per applicarsi. Dovessi usare la parte, io ne ho 7, ne ho, no, non li uso più per applicarsi. Va bene il microfono normale, capito? Per cui dietro tutti nuovi microfoni, non li ho vecchi microfoni, tutti è roba nuova, per cui però non mi tratto più, ma niente, non è sta, capito? Ci sono nuovi, ci sono vecchi, un casotto. Che bisogna pigliare, ponerli il contenitore, la pastiglia, mezzo ai piedi per non vederli più. Certo. Io lo metto dentro la busta, la pasta, perché non c'è posto la pastiglia. Mi sento ugualmente, per il poco che siamo, mi sento ugualmente con il nostro originale, il trafficato, non faccio niente. Quindi un po' così, si vede in internet, si vede, vediamo un po' che non stacca la vita, tanto non costa niente purtroppo. E se c'è qualcuno che non vuole, io lo do, scusa, non ne fa niente. Da mi sentano bene ugualmente qua. È imbarazzo, non serve niente, se uno non li usa, bisogna farli fuori, le buonanotte. Metterli in commercio. Ma infatti, non c'è posto, va bene, almeno il gruppo originale non prendono posto, tanto posto per cui va bene. Ma di sentirmi sì, e mi sentiamo con, anche da più lontano pure, che va bene. Tanto che ho fatto della potenza di Exeter, ormai non ne facciamo più, basta stare anche troppo, o no? Infatti, no, di Exeter no, non c'è più passione per quello che volevo. E poi non c'è neanche gente fuori, non sente nessuno, capito? Non sente nessuno, e dunque sarebbe di colpendo. Vediamo se il signor Tore è arrivato, ma intanto alle 7 era qua in radio, ma in radio non si vede. Tore! Tore deve essere da parte, non sarebbe entrato a quest'ora, Sì, evidentemente è andata a prendere al 50 per cui, ma prima dalle 8 di aspettarsi qui, se non è che è da parte, ma non penso. l'acqua, ragazzi. Non si può fare più nulla, adesso la terra è molle e bisogna aspettare. E bisogna aspettare che asciughi un po' per fare qualcosa. L'erba già cresce, bella argillosa, proprio di lusso. Ieri sera succede, ieri sera succede. Dopo pranzo. E ho visto che l'erba sta cominciando a uscire. E allora ho comprato l'olio, ho cambiato l'olio a bocca conservatore, e tutto. L'olio del filtro, ho controllato della presa, quello del cambio, tutto l'ho bene controllato, pulito bene il carburatore e tutto, un paio d'ore pulente, controllato bene il zappetto, per solitato se ne molla qualcuna, e qualche volta l'ho anche persa anche il zappetto, perché non li ho controllati, invece adesso prima di usarla me li controllo bene, strigo tutti i bulloni bene e almeno sto tranquillo. Oh, cazzo, io ho quelli del cambio, sembrano una ventina di quelli, perché sono 3, 3, 6, cazzo, in ogni stella ce ne sono 2, 4, 6, 4, 8, 8, 16 zappetta, ci sono, no, di più, perché sono 3 file lunghe pari, 3, 3, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, sono di più, sono, cioè sono 4 a ogni blocco, sono 4 12 24, sono 24 zoppette. Hai ragione, stavo sbagliando. Ok, è già pronto, capito? Tutto quanto regolato bene, tutto pronto per la prossima da partita. Ho fatto un giro così a provarlo, però all'esterno non ha passato a solo. L'ho ripulito e se lo metto bene. Andava bene. Oh, il terreno si poteva fare più, Ieri, dove sono gli agrumi, si poteva fare. L'altra parte no. L'altra parte perché c'è più acqua. E per cui quello non lo tocco. Poi perché c'è anche un po' di roba da bruciare. E quando prima brucia, dopo lo molto d'acqua. Però sta crescendo l'erba. Sta crescendo l'erba adesso. Già è cotta ancora, è fra poco già se ne va a fare, quindi per importare, per trovare il partito. Se va a movimento, a vedere un posto, che ogni volta aggancia la mia, poi è grande la mentola, è piena adesso ogni anno, poi la mentola è spaccatura, ma è una cosa incredibile. Per cui mi sta per richiamare. Ha giudicato un trappolo che stava alzato mentre si raggava. Se l'ha fatta l'ultima luce da rimane. Certo, che è stato il taglio. Non gli fatti niente, è taglio. Un bel di legna per me. È un bel di legna per me. Si è cominciato a rabbucciare i punti. Piano piano, andate in parete, io mi faccio la capiglia. Sì, ma io per svoltarla siamo di buttolino per innesti e innesti a barracocco a pesci a pruna stava lì non comprende come è molto rara da che scatta di buttolino per innesti è un bel di legno va giù adesso anche come è entrato che siamo e facciamo questa bugia la macchia sotto fa bugia e fino a qui con le avanti e bugia bene, bene, così che in taglio la corrente non fa bugia tutta questa roba che si è chiaro chiaro ma la si piace capito la si piace magari sto un po' lontano di bugia però tanto non può cassare e se ne bugia. io ho bruciato Borucci, la mia ho fatto bocca, ma non salta, una mezz'oretta, tre quarti d'ora, ho fatto un fogarone, non finiva più, ho detto, chisto, tutto era che andava su un buco, era infuso, ho detto, non fa pericolo che si fugge un buco, ha già le mani libere. Ho bruciato tutto, la faccia c'era la rivali, ho bruciato, le rivali venivano fatto poco, ma adesso. Ma se dovevo ammanzano, non forse a foccarello, era consumo. Io guardo qui, stavo a buca, i fogli volano, da che assegno i fogli ci si volano, e questo è il problema, massimo con i fogli dell'arancio andare a casa mala, anzi ho bruciato stamani roba di foglia di agrumi, e le foglie già stava in asse e volava, e se io non andavo lungo, era andato a fare la terra. stai uscendo? Non stai uscendo, signor Bacchi? Non dove va? Non da signor Bacchi? Vedi adesso se sto uscendo? Adesso sì, perfettamente, lasciare così. Ma sto usando il grande. Quello là non è il microfono, io penso sia per la radio, quando arriva un certo canale non funziona. Così è, allora, quindi arrivederci. Mi pare che le cose siano di male, male. Perché fino a pochi minuti fa stavo parlando con Gian Maria, infatti mi ha detto salutarti. Tutto andava bene, adesso si è ribellato, dice non ando più. Se la dispiace non ando più. Male. Infatti, con il grande già sta facendo bene. Con questo? Ma questo è il fratello del tuo. Mi andava e anda. Vabbè, me lo dici quando vuoi a coso. So che è come QRM, ne vediamo bene. Oh, hanno accogli ciò ciò. Aspetta che lo accendo. Ehi. Ma chi? Adesso lo sto usando. Funziona bene, ti sento più basso di quell'altro di poco fa, però è chiara la voce. Questa è... guarda adesso. Il segnale è sempre lo stesso, con la radio rimane più cupa questa qua. Sai, forse io devo fare un microfono normale, io devo fare un microfono da tavolo. Ah, ecco, dai, la faccenda. Sì, qua invece sei liscio. Aspetta un attimino che provo a attaccare a vedere il microfono da tavola per come esce. Via. Chi? Dimmi. Adesso come è più chiara. Un pochino più chiara? Ma si sente bene, no? Bene, come l'altro apparato. Uguale identico. Sì, perché il microfono da tavola questo. È amplificata. Infatti, la voce è diversa, più chiara, più squillante. Il microfono da tavolo è un'altra cosa. Quando usi il microfono normale è normale, ma quando ci attacchi il microfono da tavolo è tutta un'altra cosa. È diverso, cambia. È più prepotente la roba. Infatti, che domani lo devi darci a Cardini fa farlo funzionare. Infatti, domani bisogna farli Cardini, se no non funziona. Io c'era quasi 10 minuti, no neanche, 5 minuti acceso. Adesso l'ho detto dopo, come faccio a scordare un po'. A chi pensava sempre che a Hitler veniva a Romare di capo. Questo devi toccare un po', devi mettergli lo scotch per non sentire il QRM. Sì, ma stasera ce n'è QRM, un casotto stasera. Sì, infatti qua devi toccare un po' lo squelch, devi toccare, e non lo senti poco in nulla. Cioè, c'è quello là, c'è un tasto per non sentire il QRM. Sì, ma non senti il QRM, se uno chiama basso non lo senti però, perché lo squelch è chiuso. No, già lo senti perché lo metti a metà, a esitabili. Così non lo senti correre. Non senti. Io ho messo lo squelch, però se si mangia mezza voce. Sì, però se metti quel tastino là, lì, e senti il coso, se si abbassa di... delle cose, del QRM. E io adesso l'ho regolato, l'ho portato un po' indietro e la modulazione torna chiara. Comunque già arrivi bene con quello lì, a Puglia. Il QRM stasera qua è a Santiago 7. E qua me lo segna, con questo qua me lo segna a 5. Non lo so. Non so se questo è di mano larga oppure quello è avaro. Andiamo. E allora, non mi corrisponde uno giusto. Vediamo se senti il signor Marino, che sono da fare che non lo sento. Marino! Ci sono entrato all'ora delle zonche. Ma la radio ve l'ha atteso però. Lo tiene in coso, in movimento. Magari giocando fuori con i buzzi, un campetto, allo buccio. Cazzo, non me lo cura, non c'è tempo, me lo butto cura già. Dodo. È sicuro, sicuro. E via così. E adesso, la prossima settimana mi sembra di fare il pensierino della sera e me lo biglio. Adesso, la prossima settimana faccio il pensierino della sera e me lo compro. Poi guarda vedere quanti giorni ci vuole di spedizione. Adesso a me un paio di... in tre giorni, 3-4 giorni mi pare che me la arrivi. Perché i giorni lavorativi, perché se capita il sabato e la domenica passano ancora più giorni, capito? No, se ci ha segnato per esempio oggi ne abbiamo 6 e su 6 loro ti mettono per esempio per giovedì prossimo e sarebbe giovedì 11. Se ti mettono per l'11, l'11 ti arriva. E quello sì, se mettono le cose. Stavo guardando come Regno Unito, sembra che era il 21 ottobre. Io per esempio ieri ho ordinato le cartucce per la stampante e mi arrivano l'11, mi arriva. Sì, ma da fuori, non è in Italia, no? Ma in Italia è. In Italia, anche dopo il coso, è in Italia. Perché io ieri stavo guardando e mi dava tutto Regno Unito. E poi non ho capito, c'è il prezzo e poi c'è un altro prezzo, se hai notato, c'è 40 euro. Cosa sono i 40 euro? Se no, dal Regno Unito già di più, so, deve mandare secondo quanto pesa l'apparecchio, di gusta un bel di gusta. Non conviene mai, conviene su Amazon e farlo arrivare da con spedizione gratuita. Ma ci mette anche di meno, ci mette. Quello del Regno Unito ci vogliono 14 euro, quasi 15 euro, pochi centesimi a 15 euro ci vogliono. Pensa un po' che io a spedire il passaporto a mia figlia dentro una busta di quelle gialle di cose con il coso dentro. Io ho speso 9,50 euro. L'ha ricevuto l'ho spedito di sabato e l'ha ricevuto di venerdì. Addirittura così tanto ci ha messo, pare che si è messo in cammino ed è una lettera, perché è una busta che non pesa un piffero. Raccomandata però, raccomandata, ci ha messo così, ci mette così, ci mette ad arrivare lì. Addirittura. Lento, c'è il mare da attraversare, capito? Noi siamo nell'isola e c'è il mare da attraversare e i gabbiani volano poco a poco. No, parte in aereo, parte la roba da qua, e la roba arriva in aereo, arriva. Ah, vola, non via mare, via ferrovia, via aerea. Per quello che costa di più, perché via aerea. Sì, o via aerea o in nave, ci mette un giorno a arrivare qua. E si arriva per esempio a me, io 2 settimane fa ho ordinato una spazzola, in 2 giorni mi è arrivato. Sì, quello sì, perché l'altra radio che ho, il VHF, mi è arrivato in 2 giorni, oggi ho ordinato, dopo 2 giorni ce l'avevo a casa, capito? Me l'ha ordinato mio figlio, l'ho ordinato. E mi sembra che era Amazon, perché era spedizione gratuita. E a me molte volte io, questo, quando ho ordinato questo qua, è arrivato in... sono delle pallacce. Adesso ho ordinato il motore della Serranda, iscritti per mettere un motore, cambiare il motore della Serranda. L'ho ordinato, mio figlio l'ha ordinato, vuol dire stasera, l'indomani sera è arrivato al pacco. Sì, quello sì, qui secondo dove te lo mandano subito in giornata, te lo mandano. A Corso, da vicino a Torino, da vicino a Torino. Infatti è così strano, perché quello lì pagava in contrassegno, capito? Quando arrivava pagavi. Sì, quando è così così già ti arriva subito, ti arriva. Infatti, c'è l'elettorio, gli attacchi bassi. Oh, è veloce, è andato bene. È andato bene. Ciao Maria, ma lascia che non si perde. Invece l'antenna, l'ho vogliato l'antenna Andrea. Mi sembra che è stata quattro giorni a arrivare. E minimo quattro giorni, infatti gli ho detto, ma questa qui si è persa. Molte cose su eBay ci mette molto di più a arrivare, invece su Amazon ti arriva subito, ti arriva, 3-4 giorni ti arriva. Qui non ho capito una cosa, Amazon non ti fa pagare il trasporto, eBay ti fa pagare il trasporto, perché? Non lo so, perché su Amazon c'è, se sei abbonato su Prime, ti arriva il coso gratis, ti arriva, però ci sono molte cose che lo paghi. Molte cose lo paghi, ma da uno all'altro c'è molta differenza, se tu guardi il prezzo di uno o il prezzo dell'altro, c'è sempre quei 6, 7, 10 euro di differenza. Infatti, è così, sempre qualche cosa di differenza c'è. Quello che ti ho detto io stasera era 90 euro. Capite, infatti, quell'altro era 79, poi più 15, 80, più 15, siamo lì. 95 euro. 95 euro. Risparmi. Infatti, è così. Risparmi 5 euro, risparmi. E i soldi per la birra. E i soldi per la birra, c'esce. Andiamo male, no, beh, male stiamo andando là, a rattucchi. Aspetta, vedete che è un grande tempo fa, che domani, un buon uso. Sole, sole, sera, un buon uso. Ah, chissà, nel gozzo che dà di a Canale 5, fa domani a Portuella. Dov'è? Acqua, a Foni, prima non volevo andare, è zuppa. Allora bisogna stare al rubinetto, e bisogna stare sopra, se va no, che dici, se va no, c'è Baganari. Ma ah, io già ho fatto cose, non farò già tu, però mi sa che tu non c'è. Siete dragati appunto. Nuvoloso, dopo io non ci puro nuvoloso, ogni poco ho fatto una barriata d'eva. Ogni poco ne faccio una barriata. Non sono manchetti che non c'era il tempo. Non lo sanno, è a Indovino. Sì, vabbè, loro mettono. In tutto il pezzo mettono nuvoloso con pioggia. Però bisogna vendere, infatti. Oppure si fa da macchini, come si è fatto la parte di Olbia, e si parte di qui. Quando apri il rubinetto, se fa loro si mette che già serrarlo. Bisogna stare di filo però, che si può di male. Il rubinetto quando lo apri, regolano e poi la salva. Certo, non è muovendo. Bisogna se fa uno, vi fate a sopra. Bisogna trovare uno che salga a diglielo, gatto, se no che cosa si mangia di male. Bisogna salirci e dire, oh, sale al rubinetto, che no che fa in Europea. Bisogna fare così, bisogna fare. Ehi, andare. Non andare male, non andare. secondo me va mal per 2 anni, va. Il vaccino è pieno, per 2 anni siamo a posto. Per il prossimo anno bisogna accettare, sapete come è. Hai compreso che avanti piano piano a prendere la cesca e se fate in scileva, se fate in fuggire. Aspetta che andiamo bene, andiamo. Le paratie non tengono, allora dice apriamo le paratie perché è pericoloso e se secondo deve in carriera allora per esempio andiamo con il pullo a seccarla. Va viene abbastanza arriva. No, allora che andremo verso maggio, giugno, bisogna vedere come è. Ha giusto un buco, è stracolmo, pieno, ma hai visto così pieno la via sul lago. Quindi è abbastanza d'acqua. Allora sono contenti gli agricoltori di questa zona, vanno e vanno a uffa. E non è solo un buco che è pieno, no? È pieno pure l'acqua, il dipinto è il dato. Sono tutti pieni i vaccini, sono tutti pieni. E dunque che muovezza. La possiamo pure vindille vaccanno. Infatti bisogna essere anche di ricordo. Bisogna tenercela un po' in più, tenerla a livello giusto. Sì, bisogna imbottigliarla tutta, e rimunirla, bisogna imbottigliarla e rimunirla, sennò dopo non avremmo. Tanto se piove ancora aprono le paratie e la fanno uscire fuori perché dice è arrivato al livello massimo e dunque la vive che fa fuggire. Sì, l'acqua c'è adesso, se riescono a tenerla come la devono tenere la rimane, se rimangono pieni. E si mantiene, se no per il paese, forse nei suoi fuori, non li possiamo fare niente, non so. Ok, signor Tore, io sono arrivato all'ora X e dunque devo scappare. Andrà bene Mela, grazie della chiacchierata, saluti in casa, buon QRT, buona cena, buon tutto, to. A domani se coincide, ce la sentiamo. Stammi bene, ciao. Ok, ciao signor Battista, stammi bene. Se tutto va bene, ci sentiamo domani. È sicuro di sì, tutto bene. Ok, ciao Battista. Ciao Tore, ciao. Ciao anche agli ascoltoni.